Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Io sono una donna che è in cerca dell'amore, del vero amore, ridicolo, sconveniente, che ti consuma. Del genere non posso vivere senza di te, amore. Il cuore batte al ritmo delle emozioni, lo sappiamo bene, la medicina lo conferma. Il ritmo del nostro cuore è dettato dalle emozioni belle, brutte, improvvise o durature. Le emozioni risiedono nel cervello, ma hanno un'importante ricaduta sul nostro apparato cardiovascolare, sul nostro cuore. Una ricerca ha cercato di capire come funziona il legame mente-corpo, misurando in un gruppo di volontari la variazione di alcuni parametri cardiaci a seconda dei vari stati d'animo. Ne parliamo con la dottoressa Maria Giovanna Luini, medica responsabile della comunicazione scientifica IEO. Buongiorno, bentornata. Un grande gioioso buongiorno. Eh sì, perché abbiamo bisogno di un po' di gioia. Eh sì, perché nella ricerca che avete presentato oggi, ai volontari è stato chiesto di immaginare situazioni in cui perdevano le staffe, situazioni cariche di rabbia, e allora lì il battito del cuore è schizzato a 1000, ha fatto registrare un picco anche, se vogliamo, abbastanza pericoloso, perché anche la pressione, specialmente la pressione sistolica, è aumentata in modo decisamente rilevante, in modo maggiore rispetto ad altri stati emotivi. Secondo questi ricercatori, e la ricerca devo dire è molto seria perché ha analizzato persone giovani senza malattie cardiovascolari, secondo questi ricercatori, dicevo, il comportamento aggressivo e collerico ha un ruolo molto importante nello sviluppo dell'ipertensione e delle malattie cardiache. Ora, prima di andare avanti con la ricerca, io consiglio di analizzare una giornata tipo e vedere quante volte ci arrabbiamo o vi arrabbiate per niente. Cosa vuol dire per niente? Vuol dire che alcune arrabbiature possono essere evitate. Come? Con il buon vecchio trucco del contare fino a 10. Quello funziona sempre. Esatto, e con la respirazione, che Nicoletta ha insegnato molte volte in trasmissione a Essere Benessere, cioè respirare meglio, in modo più lento, in modo più profondo, può ridurre la rabbia. E a questo punto, visto che sappiamo che la rabbia fa danno al cuore, possiamo, respirando meglio e contando fino a 10, aiutare il nostro cuore. Chi è incline all'aggressività, secondo un altro studio, chi è molto competitivo, chi si rilassa poco, chi è sempre lì che deve dimostrare chissà che cosa, ha un rischio doppio di malattia cardiovascolare ed è meno incline al sorriso, il sorriso che è questo grande motore per la nostra salute. Invece amare ed essere amati sembra che sia un fattore protettivo. C'è un cardiologo, uno tra l'altro mica male perché è il presidente della Federazione Mondiale del Cuore, che dice che l'amore fa diminuire lo stress, l'ansia e la depressione, che sono tre importanti fattori di rischio per i disturbi cardiaci. Quindi cerchiamo di arrabbiarci meno, sono le 11:12, vi siete già arrabbiati nel corso di questa mattinata, potete scrivercelo e riflettere se potevate evitarvi questa arrabbiatura, di andare a far fare al vostro cuore veramente una fatica non produttiva. Ma ritorniamo su quello che ci ha raccontato la ricerca, e quindi intendere le emozioni positive, il sorriso, l'amore in senso lato, come motore al tempo stesso nutrimento del nostro benessere, un concetto, dottoressa Luini, che lei sviluppa anche nel suo ultimo libro di cui abbiamo parlato e di cui mi piace tornare a parlare, proprio perché racconta quanto le emozioni siano terapeutiche per sé, no? Per chi le prova e per chi ne è oggetto. Sì, sì, nel Male Dentro, che è uscito per Cairo, ho cercato di raccontare l'amore e le emozioni in un ambito ospedaliero, in un ambito dove c'è la malattia ma c'è anche la speranza. E ho trovato una frase, tra l'altro, sfogliandola, a un certo punto ho scritto: è una vita che il mio cuore si spacca e si rimette a posto. Amo quello che faccio e soffro volentieri per i pazienti. Certo, preferisco gioire con loro, ma la loro malattia e la morte non sono argomento sufficiente per farmi allontanare. Mi è venuto in mente, così sfogliandolo, in effetti l'amore è anche quello che spinge medici e pazienti a confidarsi, ad avere una relazione positiva tra loro, a crescere un po' di più grazie a relazioni di cura che sono capaci di far battere bene il cuore. Al ritmo giusto. Eh sì, al ritmo giusto. E auguro a tutti voi oggi di contare le occasioni di rabbia e di buttarle via e di sorridere un po' di più. Grazie alla dottoressa Giovanna Luini per essere stata con noi. Ricordo il titolo del suo libro, Il male dentro, un libro di cui vi consiglio la lettura. È una lettura che fa bene al cuore, tema di cui parliamo oggi. Grazie, dottoressa. Il cuore, alle dimensioni di un pugno chiuso, è una forma simile ad una pera con la punta rivolta verso il basso. Il cuore è l'organo simbolo dell'amore. Segue il ritmo delle emozioni. Normalmente in una persona adulta il cuore si contrae 60-70 volte al minuto. In una persona innamorata molte di più. A volte si arriva a 100 senza rendersene conto. Non sei più tu che comandi quando sei innamorato. Quando il tuo cuore batte forte per un'altra persona, non sei più tu che comandi. È lui. Scrivete e chiamatemi e ditemi che cosa vi fa battere il cuore. Chi o che cosa? 800 24 00 24. Come sempre potete scriverci, seguirci su Facebook e su Twitter. E a proposito di batticuore, in linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Maddalena Lettino, che è responsabile dell'unità operativa di cardiologia clinica 1 presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Buongiorno dottoressa Lettino, bentornata. Grazie mille, buongiorno a tutti voi. Poi cerco di avere un grandissimo sorriso, speriamo di essere contagiosa. Il cuore, dottoressa Lettino, batte, noi ci auguriamo che continui a farlo per lungo tempo, generalmente lo fa senza che noi ce ne accorgiamo, tanto che quando sentiamo il battito la cosa non ci torna. È esattamente così. Noi abitualmente abbiamo un battito cardiaco che potremmo dire normale e nel corso di questa situazione non abbiamo nessuna percezione. Di solito avvertiamo il battito cardiaco quando diventa più veloce del normale oppure quando diventa irregolare e allora in quel caso ci dà una piacevole, spiacevole sensazione. Dico piacevole sensazione perché l'emozione positiva, quella dell'amore, ci fa avvertire il batticuore, ma la sensazione non ci disturba. Spiacevole quando invece abbiamo una tachicardia, cioè un battito accelerato generato per esempio dalla rabbia, o addirittura un'aritmia, quindi un battito irregolare, che in quel caso percepiamo come qualcosa di non normale. Dottoressa Lettino, ma che cosa ci dice il numero dei battiti che possiamo misurare in modo molto semplice da soli, utilizzando due dita e un orologio? Allora, noi abbiamo, come dicevo prima, un diciamo intervallo di normalità dei battiti cardiaci, diciamo che dai 50 ai 90, meglio forse con i tempi che corrono 80 battiti al minuto, la frequenza del cuore può essere considerata normale, con le variazioni che sono fisiologiche da persona a persona, c'è chi si attesterà più spesso verso i 60, le persone allenate, i giovani, le persone di grossa corporatura, chi si attesterà più facilmente verso i 70-80. Questo è un battito che possiamo considerare assolutamente normale. Oggi rispetto a 30 anni fa siamo tutti più tachicardici, più attivati, diciamo così. Ma dottoressa Lettino, c'è una relazione tra numero di battiti e anni di vita? Ad esempio negli animali sembrerebbe di sì, perché la tartaruga ha dei battiti e bradicardica, ha 6 battiti circa al minuto e vive 150 anni. Mentre il colibrì, che ha un cuore che batte velocissimo, ho letto addirittura 600 battiti, vive in media 5 anni. E allora uno si chiede, ma insomma, evidentemente il numero dei battiti al minuto dirà qualcosa. Indubbiamente la relazione tra il numero dei battiti e la durata della vita, anche relativamente al mondo animale, è un po' più complessa e deve tener conto di tante considerazioni. Prima di tutto partiamo da un concetto veramente semplice. Ogni battito cardiaco produce la circolazione del sangue, immaginiamo idealmente attraverso tutto l'organismo. Se un animale è di piccola taglia, il tempo della circolazione è molto breve. Sì. Se un animale è di grossa taglia, il tempo è molto lungo. Quindi nell'arco dei 60-70 secondi, che è quello in cui noi di solito misuriamo il battito, ce ne saranno tanti per un animale piccolo e pochi per un animale grande, e questo non necessariamente va di pari passo con la lunghezza della vita. Esistono poi questioni di metabolismo, animali che fanno un'attività modesta, che quindi hanno un consumo energetico più basso, evidentemente avranno anche un numero di battiti minori, mentre il consumo energetico alto produce un numero di battiti maggiori. Tornando all'uomo, però, laddove diciamo per la sua taglia media abbiamo già detto qual è il valore di normalità, indubbiamente è stato documentato dalla scienza che un numero di battiti aumentato rispetto a quello che potrebbe bastare in condizioni analoghe ma senza stress, senza stimoli negativi, si associa all'attivazione di una serie di meccanismi che producono maggiore infiammazione, e questo produce una maggiore propensione all'aterosclerosi e quindi alle malattie cardiovascolari. Ed ecco perché può esserci quindi una relazione fra il battito, che è un campanello d'allarme da un lato, e dall'altro la presenza di uno stato generale che favorisce la malattia cardiaca più comune, ahimè. Dottoressa Lettino, noi abbiamo in qualche modo metabolizzato l'idea che a partire da una certa età, intorno ai 40 anni, sarebbe forse meglio anche un po' prima, di misurarci i valori della pressione. Sul battito invece del cuore non c'è ancora questa educazione, questa cultura. Perché lei consiglia di misurarsi ogni tanto il polso? È profondamente vero quello che dice. Noi abbiamo acquisito benissimo la misurazione della pressione, la facciamo sempre prima, e l'abbiamo acquisita perché c'è stata un'intera campagna che, avendo riconosciuto la pressione arteriosa come un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, ha indirizzato l'attenzione sul suo controllo precoce. Per quanto riguarda il battito cardiaco, invece, abbiamo la necessità di misurarlo precocemente, non tanto per il numero dei battiti, ma per la possibilità di accorgerci altrettanto precocemente di un'aritmia che sta diventando sempre più comune ai nostri giorni, che è la fibrillazione atriale, un'aritmia che peraltro va di pari passo con l'ipertensione, è associata alla probabilità di avere un maggior numero di ictus e spesso esordisce senza che noi ce ne accorgiamo, avendo modo quindi di svilupparsi e di rimanere in essere prima che la visita occasionale o un elettrocardiogramma fatto per altre ragioni la evidenzi, e quindi lasciando la persona che è affetta da fibrillazione atriale senza quei farmaci che potrebbero prevenire la comparsa della sua complicanza, in questo caso abbiamo detto l'ictus, quindi un fenomeno cerebrale. È pertanto in corso una campagna che sta muovendo tutto il mondo sanitario nazionale e internazionale per fare una misurazione occasionale, noi diciamo anche opportunistica tutte le volte che si può, del polso, analogamente a quanto si fa per la pressione, e segnalare al proprio medico il rilievo di un eventuale polso irregolare. Dobbiamo farlo, dobbiamo controllare il nostro polso quando siamo tranquilli, seduti, vero? Dottoressa Lettino, non è la condizione ottimale, meglio con un sorriso, esatto. Evitiamo di farlo dopo che magari abbiamo fatto uno sforzo fisico, dopo che ci siamo presi un'arrabbiatura, nel momento in cui sentiamo che i pensieri ingombrano la nostra mente. Questa è anche un'occasione per prenderci 2 minuti di pausa, di relax, perché l'invito a misurare il polso non deve suscitare apprensione o timore, ma proprio una maggiore consapevolezza di come funziona questa straordinaria macchina, che è riduttivo chiamarla macchina, che è il nostro organismo. Dottoressa Lettino. Sono perfettamente d'accordo con lei, deve essere proprio un momento di consapevolezza di se stessi, un buon momento di consapevolezza di se stessi, positivo, perché è un momento di prevenzione. Noi ahimè tendiamo a vivere qualche volta la prevenzione quasi come una consapevolezza di malattia, non invece, è assolutamente, assolutamente no. Prendiamoci il tempo per respirare, intanto se volete appoggiare le 2 dita sul polso, misurare il vostro polso, sentire se il ritmo è regolare o il numero dei battiti, 800 24 00 24, ma dottoressa Lettino, daremo anche risposte agli ascoltatori che mi stanno già scrivendo al 349 238 6666, se sentire il cuore in altre sedi, c'è chi lo sente nell'orecchio, c'è chi lo sente ad esempio in gola, è un segno di cambiamento di ritmo, di un ritmo magari troppo accelerato, o come interpretare questa voce del cuore, il ritmo del cuore che si manifesta non in altre sedi, insomma. Certo, di solito quando lo sentiamo in altre sedi e soprattutto quando lo sentiamo in gola è più facile che in quel momento il cuore stia andando veloce, il classico cuore in gola è proprio un segno di tachicardia, ma come dicevo prima non è detto che questo sia un elemento negativo, sentiamo il cuore in gola anche dopo un esercizio fisico. Quando lo sentiamo molto intenso invece qualche volta vuole dire più banalmente che c'è una pressione alta, quindi l'impulso cardiaco arriva più forte, possiamo sentirlo nelle orecchie per esempio. Queste sono le due condizioni direi più frequenti. Riccardo dalla provincia di Rimini, buongiorno Riccardo, benvenuto. Buongiorno a voi, salve. Niente, io ho 57 anni, ho una situazione un po' particolare. Ho una media di battiti che va dai 42 ai 48. Sì. E raramente arrivo intorno ai 60-62. Volevo sapere cosa comporta una cosa del genere. Dottoressa Lettina, abbiamo detto troppo veloce non va bene, ma lei ha dato un range e Riccardo dice sono un po' sotto. È vero, l'importante è capire se Riccardo ha dei sintomi con questi battiti, cioè è un riscontro occasionale, lui sta sostanzialmente bene, magari fa anche attività fisica. Sì, sicuramente. Perfetto. Allora, perché gli atleti hanno un ritmo più lento rispetto agli sedentari. Sì, assolutamente sì, gli atleti imparano, gli atleti anche coloro che fanno attività fisica, esatto, senza diventare necessariamente atleti, diciamo che allenano il proprio organismo ad economizzare al massimo le energie e a fare in modo quindi che sfruttando al meglio le energie durante l'attività fisica non abbiano bisogno di un elevato numero di giri della circolazione, il che vuol dire quindi che se raggiungono frequenze di 70-80 durante l'attività fisica, quelle che non sono assolutamente improponibili per me che non sono allenata e che vado tranquillamente a 140, tanto per intenderci, evidentemente si attestano sui 42-46 quando sono in condizioni di riposo, ma in questo caso è del tutto normale. Avanti, continua. Ancora uno. Coraggio, l'ultimo. Bene, bene, così. Forza, abbiamo finito. Alza. Oh, che fatica. Molto bene. Grazie per l'allenamento. Questo non era l'allenamento. Non era l'allenamento? Era il preriscaldamento, che precede il riscaldamento, al quale segue il preallenamento, che prepara all'allenamento e termineremo con il post-allenamento. Conoscere il numero dei battiti può essere molto utile per fornirci informazioni, per farci capire se ci alleniamo in modo corretto e nel caso darci il ritmo per farlo meglio, finalizzando gli sforzi ai risultati che dobbiamo ottenere. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Massimo Gualerzi. Buongiorno dottor Gualerzi. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Dottor Gualerzi, devo presentarla anche se ormai lei è di casa e sarebbe benessere, ricordo il suo libro Super Salute, che è un libro che in redazione ci è piaciuto molto, cardiologo della Fondazione Don Gnocchi di Parma, all'Università di Parma ed esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica. Dottor Gualerzi, allora il ritmo può dirci tante cose e può dirci se siamo degli sportivi o dei sedentari e se siamo sportivi se ci alleniamo in modo adeguato. Sì, come abbiamo già detto nel corso della trasmissione, la frequenza cardiaca è un indicatore molto fedele e preciso del nostro sistema cardiovascolare, della nostra attivazione. In condizioni normali, tanto più si è in buona forma, quindi tanto più si è allenati, tanto minore è il numero di battiti, cioè della frequenza che abbiamo a riposo. Questo vale sia a riposo che sotto sforzo, cioè relativamente allo sforzo che facciamo, se siamo allenati avremo meno pulsazioni. E inoltre, diciamo, quando si è allenati le pulsazioni tendono a ritornare al valore normale in più breve tempo, quindi si riesce ad avere un recupero migliore. Questo è tipico degli atleti, infatti come abbiamo appena sentito anche la telefonata, tendono ad avere valori più bassi a riposo ma anche a recuperare più velocemente. Perché misurarla quando ci alleniamo? Beh, perché sicuramente la frequenza cardiaca è un indicatore preciso dell'intensità dello sforzo che stiamo facendo, ma soprattutto anche dei processi metabolici che avvengono nel nostro corpo. Può infatti indicarci, in base a quanto si alza, no, durante la nostra attività fisica, che cosa stiamo utilizzando per produrre energia, cioè ad esempio gli zuccheri e i grassi, quindi è molto utile per sapere se stiamo dimagrendo facendo attività fisica o stiamo semplicemente, diciamo, rosicando o attingendo le nostre scorte. Infine, diciamo che è un modo, come abbiamo già detto, anche per verificare i benefici dell'attività fisica. Quando ci alleniamo in modo importante, giusto e corretto, la frequenza appunto tenderà, abbiamo detto, a diminuire e ognuno in buona forma dovrebbe avere almeno una riduzione di appunto almeno 12 battiti, no, nel primo minuto dopo il termine di un esercizio fisico. Quindi alla fine delle attività fisiche, entro un minuto dovremmo avere almeno una riduzione di 12 battiti. Questo è un test semplice per capire anche il nostro grado di allenamento. Ma dottor Gualerzi, quindi la cosa che noi possiamo fare è il ritmo, lo possiamo, la frequenza la possiamo misurare facilmente, fissare l'obiettivo e andare a vedere che cosa ci dice il nostro cuore, in sostanza. Ad esempio, per dimagrire. Sì, allora, per dimagrire innanzitutto la frequenza cardiaca aiuta molto a capire qual è il nostro, diciamo, target di allenamento. No? Uh-huh. E la prima cosa da fare è quella di capire la nostra frequenza cardiaca massimale, che si calcola banalmente sottraendo la nostra età a 220 per gli uomini e 226 per le donne. Questo otteniamo un numero, ad esempio un ragazzo di 20 anni maschio avrà 220 meno 20, 200 come frequenza cardiaca massima, no? Sì. E per dimagrire l'intensità che dobbiamo fare non è né troppo intensa né troppo blanda, quindi dice, è una bella cosa. Né carne né pesce, proprio, come si dice. Ecco, né carne né pesce, ed è per questo che in realtà è anche difficile dimagrire, perché è una via di mezzo che spesso viene superata quando corriamo o non viene raggiunta quando semplicemente camminiamo. Ecco, se abbiamo presente quella che è la nostra frequenza cardiaca massima, calcolata come abbiamo detto, stando sul 60-70% di quel numero che abbiamo calcolato, ecco, questa rappresenta per ciascuno di noi la frequenza target da raggiungere per dimagrire. E se la teniamo e se la manteniamo per almeno 30 o 40 minuti, abbiamo un'azione lipolitica per 30 o 40 minuti. Insomma, quindi, ad esempio, ci sfiliamo, come si dice, sì, no? Sì, dottor sì. Gualerzi, io devo dare i mercati, intanto la dottoressa Lettino è con noi, quindi voi avete tempo di raccontarci il vostro obiettivo, prendere il vostro ritmo, calcolare quindi qual è la vostra frequenza massimale e raccontarci qual è l'obiettivo che volete raggiungere. Il dottor Gualerzi rimane con noi ancora dopo i mercati per darci qualche puntualizzazione. Nel frattempo molti di voi mi stanno scrivendo la loro frequenza, il loro numero di battiti, siete a chiedermi perché e come dare risposta ad un respiro che manca, che si fa affannoso durante l'esercizio fisico, ad un risveglio per una tachicardia, un batticuore mentre riposate la notte. 800 24 00 24, naturalmente tanti consigli per il nostro cuore, per mantenerlo giovane, sano, efficiente. Mi raccomando, mettete su un foglio le vostre arrabbiature quotidiane, perché da oggi il programma, l'obiettivo è un'arrabbiatura in meno al giorno e un sorriso in più per il nostro cuore, per il nostro benessere. Essere e benessere. E siamo tornati insieme, oggi parliamo del nostro cuore, cuore e batticuore, come e perché il numero dei battiti può raccontarci tante cose sul nostro benessere, su tante cose anche sul modo in cui noi ci alleniamo, se ci alleniamo bene. In linea con noi abbiamo la dottoressa Maddalena Lettino, pronta a rispondere alle vostre domande, a darci preziose indicazioni. Anche lei ha sottolineato il ruolo delle emozioni positive per il nostro cuore, ma un ascoltatore mi scrive, dottoressa Lettino, ma basta sorridere o bisogna proprio ridere? Sarebbe ancora meglio ridere, ovviamente. Sorridere è già un buon atteggiamento nei confronti della vita, ovviamente, e questo presuppone anche un buon controllo delle proprie emozioni, ma ridere è qualcosa che ci fa veramente bene, è un di più rispetto all'atteggiamento positivo. E ridere soprattutto ci aiuta a sviluppare, a mettere in circolo una serie di sostanze che non possono che essere benefiche nei confronti dei nostri vasi sanguigni. E a proposito, vi segnalo un bellissimo articolo che è oggi sulla stampa, il titolo è "La formula che insegna a ridere, una ricerca americana, lo scopo è produrre buon umore per il benessere di ogni individuo", un articolo di Paolo Mastrolilli e un'intervista a un insegnante della terapia del sorriso, dello yoga della risata. Abbiamo però il nostro dottor Massimo Gualerzi che ci insegna ad allenarci in modo corretto e fissando l'obiettivo, che può essere il dimagramento, l'abbassamento magari della pressione, di capire qual è la frequenza a cui allenarci. Abbiamo in linea con noi il dottor Gualerzi, Davide da Pavia. Davide, buongiorno. Sì. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Lei si allena? Grazie. Io mi alleno, sì, sono un maratoneta e un triatleta in attività agonistica. Perfetto, allora è il caso nostro. Davide, lei si è presa il... Io sono, esatto, sono anche abbastanza attento a questi aspetti di cui stavate parlando. E mi alleno spesso col cardiofrequenzimetro. Volevo appunto chiedere al professore se le mie valutazioni sono corrette, nel senso che alterno anche degli allenamenti con un obiettivo, come dire, dimagrante, dove riduco la frequenza a circa 120-125 battiti, io ho 37 anni, mentre quando mi alleno proprio per le performance di corsa, ovviamente salgo in termini di battiti fino ad allenarmi quasi alla soglia che è stata calcolata in 185-187 battiti. Perché la frequenza, così rispondiamo dottor Gualerzi, la frequenza massima personale empiricamente si può calcolando, sottraendo a 220 per gli uomini, 226 per le donne, ma possiamo fare tutti 220 uguale? Sì, possiamo fare anche dai, meno l'età. Ecco, dottor Gualerzi, Davide ci aiuta a ritornare su questo tema. Per dimagrire c'è una frequenza, per allenarsi e quindi implementare, non so, diventare più veloci o fare tempi migliori, la frequenza va cambiata. Ci dà qualche indicazione? Sì, in realtà Davide fa già le cose fatte molto bene. Per migliorarsi la cosa più importante è variare molto e sperimentare allenamenti che facciano variare molto la nostra frequenza cardiaca. Le tre tipologie di allenamento sono sostanzialmente quelli che degli allenamenti che vengono definiti le classiche ripetute, che portano per brevi periodi la nostra frequenza attorno alla frequenza cardiaca massima, sì, come appunto diceva Davide. Invece, non so, allenamenti più lunghi a frequenze medio-basse, quelle ad esempio attorno alla soglia lipolitica, quelle che abbiamo detto per dimagrire, sì, invece dei veri allenamenti che fanno fare dei su e giù alla nostra frequenza, che in termini tecnici si chiamano fartlek o interval training, che alternano fasi di frequenza molto alta a fasi di frequenza molto bassa, un po' come sulle montagne russe. Bravissimo, un po' come sulle montagne russe. Mischiando bene questi tre allenamenti abbiamo la massima efficienza, perché andiamo a toccare tutti i nostri punti metabolici e tutte le nostre abilità vengono appunto potenziate. Dottor Gualerzi, però noi lo sappiamo e la dottoressa Lettino può confermare che voi medici spesso suggerite ai sedentari di muoversi un po' per far rientrare nella norma alcuni valori, ad esempio valori alterati della pressione. La pressione sale un po', il primo consiglio che ci dà il medico è: attenta a tavola, magari riduca il sale, ma faccia un po' di moto. Qual è allora la frequenza ideale per far rientrare, ad esempio, i valori della pressione nella norma? Ma un ascoltatore mi scrive anche se l'attività fisica può anche far scendere il colesterolo. Dottor Gualerzi. Sì, ecco, purtroppo qui devo rispondere che il colesterolo non si abbassa molto con l'attività fisica. Noi utilizziamo più che altro i trigliceridi e il colesterolo può scendere perché sale un pochino quello buono. Però in realtà poca roba. Il totale di colesterolo si muove poco. Per migliorare i parametri come la glicemia e come la pressione valgono gli stessi consigli che ho appena dato a Davide che fa il maratoneta, cioè quello di sperimentare diverse tipologie di allenamento, sì, ma sicuramente quello di non incappare nell'errore che fanno spesso molte persone di andare piano, quindi quello di modificare, fare pretendere che sotto sforzo la propria frequenza salga, perché l'errore che più comunemente facciamo è quello di accontentarci magari di fare una camminata blanda, che per l'amor di Dio è molto meglio che restarsene seduti sul divano, però obiettivamente finisce col tempo per non essere troppo utile. Quindi bisogna lavorare sodo se si vuole migliorare la propria pressione, ad esempio la propria glicemia. Grazie dottor Gualerzi per essere stato con noi. Vi ricordo che il dottor Gualerzi è un esperto del nostro Daily Lab che mi invito a consultare quotidianamente. A proposito di colesterolo, come eliminare il colesterolo, 5 consigli da seguire molto facili da alimentare, lo trovate proprio sulla pagina di Essere Benessere. Dottor Gualerzi, buona giornata. Buona giornata a voi, buona giornata, arrivederci. Dottoressa Lettino, quando facciamo attività fisica e facciamo uno sforzo, facciamo le scale, è normale di sentire un po' il cuore in gola, no? È assolutamente normale. Però ci sono delle situazioni in cui, insomma, questo cuore in gola non ci torna. Ad esempio, persone, sono diverse le ascoltatori e le ascoltatrici che si firmano, sono più donne, che mi scrivono, spesso mi sveglio la notte proprio con il cuore in gola, eppure non sto facendo nulla, né sogno, né qualche cosa di particolare. Come mai, dottoressa Lettino? Allora, diciamo che quando ci si sveglia di notte col cuore in gola è più facile che quella tachicardia non sia completamente normale, quindi non sia l'adattamento che abbiamo durante l'attività fisica. In alcuni casi, quando non si trova nulla di particolare, possiamo ancora invocare il sogno non ricordato o lo stress che si è manifestato con immagini che hanno suscitato un aumento di frequenza, ma spesso il cuore in gola del risveglio notturno è una fugace aritmia che magari si risolve poi proprio con il risveglio. Io consiglio sempre, quando ci sono episodi di questo tipo, di sentire il parere di un cardiologo. Magari verrà messo in programma un esame semplice come la registrazione dell'elettrocardiogramma nelle 24 ore per capire esattamente cosa sta succedendo in quei momenti. Abbiamo il tempo di andare di fare un saltino a Reggio Calabria? Sì, Carmelo Lauricella che regge la parte tecnica mi ha detto sì, e c'è Ida. Buongiorno Ida, benvenuta. Buongiorno, io vado a ballare. Brava. E mi hanno detto che il ritmo del valzer, soprattutto se ripetuto spesso, disturba il ritmo cardiaco. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto, Ida? Sentiamo la dottoressa Lettino. Dottoressa. Assolutamente no. Tu qualunque tipo di ballo, se ben tollerato, se ben fatto, se le dà soddisfazione, non ha nessuna controindicazione cardiologica. Ida, secondo me, gliel'ha detto una sua amica che era invidiosa del suo ballerino, e allora per farla sedere un po' e per fregarle il ballerino le ha raccontato questa cosa del valzer. Essere e benessere. Chi prova a ridere col naso fa più o meno così. Chi prova a ridere tra i denti potrà solo un serpente imitar. E poi c'è quello indeciso che fa. Le nostre nonne avevano visto lungo quando dicevano cuor contento il ciel aiuta. Dottoressa Lettino, le ricerche lo dimostrano, stiamo tornando a parlare del buon umore, del sorriso e soprattutto di cercare di arrabbiarsi un po' di meno, perché se proprio non riusciamo a sorridere, a ridere, almeno cerchiamo di non farci prendere dalla rabbia, dall'aggressività. Tutto questo aiuta anche, dottoressa Lettino, a tenere sotto controllo lo stress, che sappiamo è un nemico in generale, quello stress negativo della nostra salute, del nostro benessere, ma che ha degli organi bersagli, a volte punta dritto al cuore. Dottoressa. Assolutamente sì, lo stress purtroppo è una realtà che è difficile attribuire soltanto alla nostra cattiva reattività nei confronti del mondo che ci circonda, ovviamente. Certo. È generato anche dalle cose che ci circondano, però lo stress può colpire il cuore in tanti modi, lo fa in modo diverso ovviamente a seconda delle persone, lo può fare acutamente, nel senso che lo stress può determinare, al di là dell'aumento della frequenza cardiaca, anche un episodio di crisi cardiaca acuta del tutto paragonabile ad un infarto comune, anche se poi per fortuna quella che noi chiamiamo prognosi, quindi l'evoluzione successiva, è più favorevole. Ma dottoressa Lettino, mi scusi, ma questo è quello che un tempo si chiamava il crepacuore? Direi proprio di sì, è quello che si chiamava il crepacuore. Lo traduco in modo sì. Così, però racconta abbastanza questa situazione. Assolutamente sì, è chiaro che una volta era molto più raro, si verificava in situazioni estreme, in condizioni disastrose, e poteva portare anche alla morte. Il famoso crepacuore era una delle cause di mortalità. Adesso ne abbiamo talmente tante che il crepacuore faremo fatica a identificarlo. Certo. Però sicuramente può essere ragione di tutto questo, e nasce da una serie di condizioni della vita che ci circonda che hanno aumentato la velocità della nostra esistenza, hanno portato quindi a un disagio di adattamento da parte di molte persone, anche le persone che tutto sommato potrebbero avere una reattività più che normale in condizioni, diciamo, meno impositive e meno forti da parte dell'ambiente esterno. Lo stress però col tempo logora le nostre arterie, quindi al di là della crisi cardiaca acuta, ecco perché lo dobbiamo combattere lentamente, quotidianamente, cercando evidentemente di mettere in opera tutte quelle cose che ci possono, nei limiti del possibile, difendere, e questo è molto importante. Adamo ci scrive su Twitter, dottoressa Lettino, 74 battiti al minuto, 40 anni, sportivo, vado bene? Assolutamente sì. Ci faccia vedere la foto, però insomma dai battiti possiamo dire di sì. Direi proprio di sì. Sì, direi di sì. E abbiamo Carlo dalla provincia di Brescia. Buongiorno Carlo, benvenuto. Buongiorno. Ma buongiorno a lei. Nicoletta. Buongiorno Carlo. Eccoci. Io ho un piccolo problema. A diversità degli altri, quando io faccio uno sforzo fisico, invece di Invece che i battiti mi ritornino alla normalità in poco tempo, mi rimangono alti per tutta la giornata e non mi lasciano dormire. Dottoressa Lettino, come mai? Questo bisognerebbe proprio andarlo a vedere, nel senso che non vorrei che l'attività fisica, dopo aver aumentato il numero dei battiti, magari ha fatto nascere un'aritmia regolare che però tende a mantenersi. Io consiglierei di provare a fare dopo l'attività fisica un elettrocardiogramma, oppure di provare a fare un test fisico di attività e vedere come si comporta l'elettrocardiogramma durante. Questo è il consiglio per Carlo della dottoressa Lettino. Abbiamo dato tanti consigli oggi e abbiamo sottolineato quanto e come lo stress possa in qualche modo danneggiare il nostro cuore, la nostra salute, ma se lo stress è nemico, abbiamo invece un amico che dovrebbe farsi vedere di più in questa stagione, ma si sta nascondendo, e il sole, adesso arriverà l'estate, e c'è una ricerca che sottolinea una relazione molto interessante tra l'esposizione solare e il benessere del cuore. Ce la racconta il dottor Giulio Tosti, che è in linea con noi, dermatologo all'OIEO. Dottor Tosti, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Prendere il sole fa bene al cuore. Riassumo così la ricerca che proprio arriva alle porte dell'estate, quasi a rassicurarci che le esposizioni regolari, non naturalmente con un'adeguata protezione, possono fare bene al nostro cuore. È vero Nicoletta, infatti un recente studio di un gruppo di ricercatori di Edimburgo, dell'Università di Edimburgo, suggerisce proprio che l'esposizione della pelle alla luce del sole potrebbe esercitare degli effetti benefici sulla salute in generale, in particolare andando a determinare una regolarizzazione, una diminuzione dei valori della pressione arteriosa e quindi diciamo riducendo il rischio di eventi cardiovascolari. I ricercatori hanno ipotizzato che questa riduzione dei valori pressori possa dipendere dalla liberazione di ossido nitrico, che è una sostanza che viene liberata nel sangue in seguito all'esposizione della cute ai raggi solari, e quindi questo ossido nitrico avrebbe praticamente un effetto protettivo. E quindi diciamo, sarà interessante vedere gli sviluppi di questo studio e capire se la riduzione della pressione arteriosa e quindi degli eventi cardiovascolari legati all'esposizione della cute alla luce solare possano in qualche modo diciamo, sopravanzare il rischio dei tumori cutanei che sono dovuti proprio alla stessa esposizione alla luce del sole. Quindi diciamo, questa è la sfida. Questa è la sfida e ne sentiremo naturalmente degli approfondimenti, degli aggiornamenti. Per oggi è tutto. Ringrazio la dottoressa Maddalena Lettino e il dottor Tosti per essere stato con noi. Carmelo Lauricelli regia la parte tecnica, Laura Vanossi come sempre in redazione. Appuntamento a domani, se volete scriverci siamo qui. Essere e benessere.